Sei proprio goffa, proprio rozza, troppo grassa per me, sei troppo bassa, proprio brutto fisico che fa cagare, vomitare, nauseare. Proprio deficiente, un po' temente, poco intelligente, alito pestilenziale, fonte d'ogni male che fa morire, svenire, rincretinire, oh boh. La mostruosità del viso, la schifezza per inciso, dal tuo aspetto, scorpio, dal tuo corpo.